Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Siamo di fronte ad un provvedimento complessivo, ad un intervento coerente ed organico di ammodernamento del sistema della scuola. Eccolo qua il provvedimento di cui parla il ministro Gelmini, emerso giovedì in Consiglio dei Ministri. Si tratta di due schemi di regolamento, uno sulla riorganizzazione della rete scolastica e sul riordino del primo ciclo. Poi, sempre in Consiglio dei Ministri, è stato avviato l'esame del regolamento per il nuovo secondo ciclo delle superiori. Queste dunque le novità, cominciando dai più piccoli. Alla scuola materna potranno iscriversi anche i bambini di 2 anni e mezzo. Confermate anche le classi primavera, già sperimentate sotto il ministro Fioroni, per i bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi. Cancellato nella primaria il modulo, viene introdotto questo benedetto maestro unico di riferimento per i bambini che scelgono di andare a scuola solo il mattino. Restano invece 2 maestri per i bambini che invece scelgono il tempo pieno. Le prime classi delle medie saranno articolate in 29 o 30 ore settimanali, però la seconda lingua potrà essere anche l'italiano per i ragazzi stranieri. Se le famiglie lo vorranno, sarà possibile scegliere 5 ore di inglese. Siamo agli studenti più grandi, quelli delle superiori. In questo caso i regolamenti devono ancora arrivare, ma insomma il disegno sembra ormai chiaro. Nei licei si passerà da 510 indirizzi a 9. Nasceranno poi 2 nuovi licei, quello musicale e quello delle scienze umane. Anche per gli istituti tecnici è prevista una drastica riduzione degli indirizzi da 204 a 11. Nei tecnici poi il secondo biennio sarà specialistico e l'ultimo anno di perfezionamento. Per il sostegno tutto resta uguale, quindi un docente di riferimento ogni 2 alunni disabili. Infine è confermato che non verranno chiuse le scuole delle isole, dei comuni montani e dei piccoli comuni. Del tetto del numero degli alunni stranieri nelle classi è un tema che torna spesso d'attualità e accende sempre molte polemiche. Ora però c'è qualcosa di più di una polemica, nel senso che la provincia autonoma di Bolzano ha deciso di applicarla. Il 70% degli alunni dovrà essere italiano, tedesco o ladino. Il provvedimento entrerà in vigore nel febbraio 2009, cioè dal prossimo anno scolastico. L'assessore all'istruzione della provincia di Bolzano, Francesco Comina. Abbiamo pensato che fosse importante creare delle situazioni appunto favorevoli al dialogo e quindi che non si creassero situazioni ghetto oppure situazioni in cui diventa difficile per gli insegnanti la didattica e lo svolgimento in qualche modo della relazione tra bambini locali e bambini stranieri. Ecco perché dopo una lunga lavoro che ha coinvolto la Consulta Immigrati, che ha coinvolto i sindacati, che ha coinvolto i dirigenti scolastici, si è arrivato ad individuare questa soglia in qualche modo del 30%, che è una soglia abbastanza alta, nel senso che la media a livello provinciale di bambini e di ragazzi stranieri nelle scuole si aggira intorno al 6,5% a livello provinciale, con delle punte sulla città, con delle medie sulla città di Bolzano del 15% e con delle punte, è vero, in alcune scuole, soprattutto nel centro storico, che arrivano anche al 40%. Questo provvedimento nasce da un senso di emergenza di qualche dirigente scolastico oppure siete voi che avete deciso preventivamente di agire in questo modo? Allora, il problema dell'incidenza degli stranieri nelle scuole riguarda soprattutto, ha ricadute più forti sulla scuola italiana rispetto alla scuola tedesca. E poi abbiamo individuato delle situazioni di disomogeneità del problema, ossia appunto abbiamo una scuola nel centro storico che arriva appunto del 40%, mentre in altre situazioni della città sono molto più bassa la percentuale. E poi ancora di più nelle scuole tedesche il fenomeno è molto più marginale, quindi abbiamo pensato di riequilibrare queste strutture un po' che ci sono e di cercare di trovare una via di mezzo in qualche modo, cercando ecco anche di spostare eventualmente in scuole dove l'incidenza è più bassa questi immigrati in modo di armonizzare un pochino il fenomeno, il problema. E però bisogna anche tenere presente che questa scuola che ha appunto un'incidenza del 40%... Se non ho capito male, la Dante Alighieri. Sì, la Dante Alighieri di Bolzano. È una scuola dove abbiamo dei livelli alti di apprendimento e di istruzione, quindi a maggior ragione questo conferma che l'inserimento dei ragazzi, bambini stranieri, è una risorsa. Che non c'entra con le classi ponte. No, assolutamente, non c'entra assolutamente, anzi è una risposta critica in qualche modo nella proposta della Lega di creare queste classi ponte. Noi miriamo alla una totale integrazione, ad un lavoro di reciproco scambio. Per quanto riguarda alunni che sono già inseriti in alcune scuole, dovranno essere spostati l'anno prossimo oppure rimarranno fino al termine del ciclo scolastico? Ovviamente rimangono fino al termine, questo provvedimento parte appunto dal prossimo anno. Abbiamo deciso di approvare queste norme, questo provvedimento in maniera molto soft, nel senso di evitare appunto difficoltà ai ragazzi, quindi si cercherà di mantenere per i ragazzi che hanno già i loro amici, sono già in una classe, di mantenere questa situazione fino alla fine. Tetto dunque del 30% per gli alunni stranieri nella provincia di Bolzano, ma che cosa ne pensano loro, gli stranieri? Il presidente della Consulta per gli immigrati di Bolzano, Artan Mullemeri. Questa idea è partita proprio da noi, non di mettere ben nell'ordine 30%, ma di rivedere la percentuale di presenza di immigrati proprio nelle aule, nelle classi, perché così noi creiamo i ghetti e non contribuiamo sull'integrazione dei alunni stranieri, se li facciamo concentrare nelle classi. Poi siamo veramente soddisfatti su questa. Non possiamo pensare che i migrati sono pacchi, che li puoi spostare da qua di là, ma di mettere certe regole anche scritte o non scritte, di rivedere questa concentrazione di alunni stranieri. Così possiamo anche migliorare l'integrazione. Non sarebbe stato molto più semplice direttamente iscriversi in diverse scuole piuttosto che concentrarvi soltanto in alcune? Ma allora, quella dipende, perché noi abbiamo qua, da quartiere a un quartiere, abbiamo una concentrazione di immigrati anche in questi quartieri. Supponiamo, prendiamo l'esempio del quartiere lì Piani Rencio, che è proprio il centro della città. Lì la concentrazione di immigrati, delle famiglie immigrate, è oltre 13%, quando nelle varie altre zone è 7%. Perciò lì comporta la concentrazione anche di immigrati nelle classi stesse. C'è una ricaduta proprio in modo verticale delle famiglie e i figli di queste famiglie che vengono iscritti nelle scuole. Perciò abbiamo chiesto poi di essere iscritti non da un quartiere all'altro, ma nelle zone limitrofe, così non comporta disagio anche per spostamento delle famiglie straniere a accompagnare i figli, in quanto anche la provincia stessa ha deciso di dare un supporto logistico con i mezzi di trasporto. Sentiamo ora invece che cosa ne pensano quelli che nella scuola vivono la realtà della presenza degli alunni stranieri tutti i giorni. Sentiamo il dirigente scolastico della scuola elementare e media Dante Alighieri, centro storico di Bolzano, si chiama Giulio Klamer. È un provvedimento che io ritengo positivo, perché è il primo segnale di una regolamentazione del problema, perché da ultimo è emersa una grande sproporzione di concentrazione in alcune scuole e di scarsa presenza in altre. Non sembra però che ci siano problemi o quantomeno emergenze. Ma sì, diciamo che la preoccupazione è quando ci sono classi, come succede anche nella mia scuola, che non so, raggiungono il 60% di presenze di bambini immigrati rispetto agli altri, e questo deriva da una mancata regolamentazione, specialmente nei tempi delle iscrizioni, per cui classi che sono già piene non ne prendono neanche uno, mentre classi che per qualche sorte sono rimaste un po' più basse di numeri si riempiono con tutti i vari arrivi che non sono mai al momento delle iscrizioni. Quindi c'è un po' una questione di equilibrio che va a beneficio proprio dei bambini immigrati, nel senso che non va bene neanche per i bambini immigrati trovarsi in una situazione di una tale complessità. Cioè lei dice, se gli stranieri si ritrovano ad essere in maggioranza hanno poco da imparare dal paese in cui sono andati a vivere. C'è questo problema, e anche il fatto che gli stranieri non è che è una massa informe che sono tutti uguali, anche fra di loro ci sono enormi differenze, enormi diversità. Da voi qual è la percentuale di stranieri? Se dovessi guardare la media di tutto l'istituto siamo, che dirle, intorno al 30%. Se però guardiamo la situazione di alcune classi, siamo al 50-60%. Ha già parlato con qualche genitore, sia italiano che straniero, di questo provvedimento? E ma, se sì, come l'hanno preso? Diciamo che mi pare che sia stato colto abbastanza positivamente. È chiaro che ogni provvedimento che riguarda le persone e i bambini dovrebbe essere applicato con grande prudenza e ragionevolezza, nel senso che noi abbiamo, non so, stranieri che sono qui da 10 anni, stranieri che sono appena arrivati, stranieri che arrivano in età di scuola media, stranieri che arrivano in prima elementare. Ecco, teniamo presente che ci sono, lo dico sempre, esempi di bambini immigrati, di ragazzi immigrati che sono di esempio ai nostri, dove sono esempi di impegno, di ottimi risultati e anche di belle classi che sono magari perfettamente integrate. Grazie a Marco Lignana per le interviste. Noi ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, alle 12:45. Buon Natale a tutti!